Allora, io direi con Andrea Romeo di iniziare una conversazione sul 2024 e passaggio a 2025, su quello che è stato nei percorsi di I Wonder Picture, a quelli che saranno i progetti. Intanto buongiorno Andrea, e che ci puoi dire su tutto ciò? Beh, buongiorno intanto a Radio Fujiko, è un piacere essere con voi. È stato un 2024 sfidante, con dei film come La Zona di Interesse, come The Substance, che hanno colto l'attenzione e la passione degli spettatori, e un 2025, se è possibile, ancora più sfidante, con tanti grandi titoli della nuova cinefilia di A24. Abbiamo accettato l'invito di A24 a cominciare a distribuire in permanenza i loro film, e quindi tanti film importanti, partendo da quello che viene un po' presentato come il nuovo E.T., che è The Legend of Oci, che uscirà il 6 marzo. La crescita intorno anche alle sale di pop-up cinema. Ma sì, Pop-Up Cinema è una comunità che cresce, sono veramente tantissimi, oltre 250 i film che abbiamo presentato nelle quattro sale del Pop-Up Cinema nell'arco di questo 2024, un'offerta molto differenziata, ma ben 23 dei 25 film di maggior incasso dell'anno sono passati appunto da Pop-Up Cinema, dimostrazione di un'offerta larga, variegata come si dice in questi casi, ma anche ricca di occasioni preziose e di singole proiezioni preziose. Sono tantissimi registi e gli interpreti che sono passati da Pop-Up Cinema quest'anno, costruendo una vera e propria comunità cinefila anche molto fresca, molto nuova. Siamo molto contenti, come dire, sia del nostro zoccolo duro di affezionati, sia del fatto che anche i nuovi bolognesi hanno cominciato a frequentare Pop-Up Cinema, e molti studenti, molti film che hanno avuto grande successo a Pop-Up, come per esempio Povere Creature, come The Substance, ma anche lo stesso Zona di Interesse ha avuto un pubblico molto giovane e anche molto nuovo. Riapertura del Fulgor? Ne parliamo il 7 febbraio, speriamo per allora di avere delle novità sostanziali. Come sai, è sempre complesso riaprire una sala cinematografica in un comune poi attento come quello di Bologna, quindi stiamo lavorando con le istituzioni per costruire un progetto che ci porterà nel 2025, vogliamo essere fiduciosi, ad aprire il cantiere del Cinema Fulgor. 2025, I Wonder Picture per Oscar Party, un altro appuntamento importante. Ma guarda, è incredibile quanto il giorno dopo gli Oscar ci chiedono già, ma l'anno prossimo l'anno lo prossimo. Rifacciamo? Perché è sempre molto divertente. Quest'anno andiamo agli Oscar. In realtà seguiremmo gli Oscar anche se non avessimo nomination come i Wonder Pictures, però a occhio e croce The Substance, con 5 nomination ai Golden Globe, se la gioca per le nomination agli Oscar. Ovviamente facciamo un tifo sfegatato, certo, per Demi Moore, per Margaret Qualley, per la regista Coralie Farjah, che ieri è stata nominata sia come miglior sceneggiatura ai Golden Globe che come miglior regia. Vediamo, sarà il 2 marzo, come sempre un'intera giornata dedicata agli Oscar, che poi culmina in una notte forse sennata di tifo in diretta indiavolato dal Pop-Up Cinema Medica 4K. Presto sarà anche possibile cominciare ad avere i dettagli e prenotarsi per questa avventura che è diventata un po' una tradizione di Pop-Up Cinema. Non ci facciamo mancare niente, neanche nella tradizione no gastronomica. Ma sì, sempre più cura, perché il modo di stare assieme e anche di rappresentare e raccontare lo facciamo con Casa I Wonder nei festival internazionali. Adesso a gennaio andremo al Sundance Film Festival, dove ospiteremo diversi film. Non è ancora stato annunciato il programma, quindi non anticipo nulla, ma avremo due film di I Wonder Pictures lì, e lì diciamo ospiteremo davanti all'Egyptian Theater, nella nostra diciamo magione casa I Wonder, con lo chef bolognesissimo ma ormai newyorkese Michele Casadei Massari, ospiteremo anche i prodotti d'eccellenza dell'enogastronomia emiliano-romagnola, quindi sono sempre con noi Palazzo di Rivarignana con i suoi oli, e anche Giusti aceto balsamico, il consorzio del parmigiano reggiano e tante realtà che ci tengono a essere con noi per trasformare, come è stato quest'anno alla Mostra del Cinema di Venezia, le anteprime cinematografiche poi in un momento conviviale in cui I Wonder racconta non solo i suoi contenuti ma anche le eccellenze italiane e del nostro territorio emiliano-romagnolo. Io ti ringrazio tantissimo e ti auguro buona giornata. Grazie a voi e buone visioni.